Tempo di sport con Carlo Genta. Dunque, la Procura federale archivia la richiesta della Juventus sullo scudetto del 2006. L'avete sentito poco fa nel GR, la notizia è stata appena battuta dalle agenzie. Il 18 luglio, dunque, si dirà, ci sarà la sentenza definitiva, si dirà che sulla richiesta della Juventus si dirà che lo scudetto di cartone del 2006 rimane nella bacheca dell'Inter. 800 24 00 24, se volete intervenire. Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanida in redazione. Se volete parlarne lo facciamo anche. Intanto noi continuiamo con altri discorsi più attuali, ma anche, se vogliamo, più divertenti rispetto a queste, a questa continua lite di retroguardia. Secondo me questa incapacità da parte di tutti di tagliare i fili col passato, non so se questo sia stato, ma non credo, il colpo di lama definitivo. 800 24 00 24, dicevamo, messaggio SMS 349 238 6666. Dunque, se non l'avevate capito in slovacco, se non l'avevate capito in slovacco, adesso lo ha rispiegato in italiano. Ecco il mare chiaro Amsic pensiero sul suo futuro. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te, per te. Eh sì, ho sentito che sono stati tanti voci, neanche giusti, non tutti giusti. No, io lo penso così, che a Napoli io sono molto felice. Non è che c'ho fretta andare via, però se viene una proposta di qualsiasi squadra, grande squadra, ci penseremo, io, Napoli e anche squadra che mi vorrebbe, non è che per forza devo andare via. No, no, ancora ufficialmente non è arrivato niente, si parla tanto e vediamo ancora, c'è tempo ancora. E più che ha vinto il campionato, squadra più titolata del mondo. E questo è il suo pensiero d'amore, ha già imparato la lezione con lo slogan la squadra più titolata al mondo. Paolo Bargigia, volto noto di Mediaset, mio amico, ciao Paolo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, certo Carlo. Che, caro Paolo, se 40 milioni sono un rimborso spese, come dice De Laurentiis. Guarda, De Laurentiis secondo me in queste settimane sta facendo... Tra alcune cose vere che dice, sta facendo molto cabaret. Sì. Ti è presente? Simpatico De Laurentiis, Paolo? Sì, mi è simpatico e tra l'altro gli riconosco anche dei meriti sportivi, perché credo che tra l'oculatezza del bilancio e un calcio sostenibile che lui ha promosso e i risultati, credo che sia stato il più bravo negli ultimi 5 anni. Tieni presente che tutti i club dovrebbero ispirarsi a questa gestione, come del resto induce a fare Platini col fair play finanziario, perché Napoli ha un monte ingaggi decisamente molto più basso degli altri grossi club e anche di chi gli è arrivato dietro, 40-45 milioni di euro a stagione per gli stipendi, con un fatturato più del doppio, quindi tanto di cappello. Il problema è che secondo me De Laurentiis adesso si trova alla fase 2 della sua avventura, perché entrare in Champions vuol dire trattare giocatori comunque più importanti, quindi più costosi, ed uscire un po', se vuoi, da quella gestione così contingentata che per esempio non gli concede quasi nulla sulla gestione dei diritti sportivi, che è un ostacolo, dei diritti d'immagine, che è un grosso ostacolo per esempio su certi giocatori, non dico top player, ma comunque abbastanza. 40 milioni su Amsic, guarda, io ti dico, faccio mercato da sempre e ti posso dire che se il Milan arriverà a fare un'offerta in contanti tra i 25 e i 30 milioni e la strategia di Amsic e di Mino Raiola continuerà, io credo che De Laurentiis accetterà di cedere il giocatore. Adesso siamo in una fase dove vale tutto e il contrario di tutto, però chi conosce Raiola e chi conosce anche Amsic, con quell'intervista dell'altro giorno alla Pravda, capisce che quello è il primo step di un piano che li porterà a chiedere a Napoli di essere ceduti per andare al Milan. Certo, comunque questa consulenza di Raiola costerà parecchio al Napoli, no? Perché il disegno è abbastanza scontato, il Milan ha detto al suo amico Mino: Senti, visto che siamo in affari insieme, fai un po', di un po' ad Amsic di rendere pubblico il suo, i suoi desideri e la sua volontà, così almeno il prezzo si abbassa. Sì, Carlo, lì la strategia la fa addirittura Raiola, perché se tu ci pensi, nel passato lui risolse situazioni ingarbugliate sempre in favore di società che collaboravano con lui. Nel 2004 riuscì a portare alla Juve Emerson strappandolo alla Roma e Ibrahimovic portandolo via dall'Ajax, spingendo anche Ibrahimovic a creare quel casino negli spogliatoi, certo, quando litigò con Van der Waals, eccetera. E due anni dopo fece fare un casino tale ad Ibrahimovic nel ritiro della Juve a Pinzolo per andare all'Inter, che il povero Blanc, che allora aveva ereditato la patata bollente di Calciopoli, non mi piace chiamarla Mongiopoli perché io non sono assolutamente d'accordo sull'identificare il tutto in, nella persona del direttore generale della Juve, e quindi risolse quei casi. Io credo che la strategia sia ben definita. Insomma, se il Milan non cambia idea e non si ritira da questa cosa, adesso prima o poi ci aspetteremo un'offerta. Il Napoli il giorno 16 parte per il ritiro. Sì. Secondo me De Laurentiis vorrà parlare e incontrare il giocatore prima. Certo. Perché sicuramente sarà un bel disturbo avere uno come Amsic, no? Cioè, a proposito di casini in ritiro in spogliatoio, no? De Laurentiis, che mica è fesso, vorrà evitarli e non partire con questa grana sulla schiena. Fatemi capire una cosa invece, Paolo, l'Inter oggi dovrebbe ufficializzare Palacio, ma non sarà mica questo il colpo dell'anno per un top team europeo che già ha ricambiato allenatore, ha preso allenatore bravissimo, ma del Genoa, e adesso prende Palacio e dice ai tifosi: andiamo a vincere la Champions League con questa squadra. Carlo, da quel che so e che posso capire, il nome da figurina l'Inter non lo porterà a casa. Cioè, no? No, secondo me no, in questo senso. Vabbè, intanto con Palacio sono da stamattina in andieri vieni nella sede dell'Inter, era stato anche Preziosi. Adesso stanno tentando di convincere Pandev ad accettare, secondo me alla fine spingeranno anche su una buona uscita, altrimenti entreranno in gioco altri giocatori. Ma tieni presente, secondo me, che l'Inter ha fatto comunque il 50% del suo mercato, l'ha fatto a gennaio, perché a gennaio ha preso Ranocchia, Pazzini, sì, Nagatomo e Karjan, e che se Moratti non si sveglia una mattina cambiando completamente idea, ha veramente intenzione di conformarsi al fair play finanziario. Vedi anche nell'approccio con Lucio, che ha 33 anni, gli hanno fatto una proposta di rinnovo annuale più opzione. Cioè, credo siano abbastanza finiti i tempi del Moratti che fa le operazioni a perdere, e quindi, a parte Palacio, loro ci stanno provando con Ricky Alvarez, questo talento della Vélez, ma credo che l'Arsenal sia molto molto in vantaggio. Sì. Sui supernomi io all'orizzonte non ne vedo, credimi, anche perché l'Inter potrà regalare qualcosa ai suoi tifosi se riuscirà a cedere qualche giocatore importante. Sì, sì. E mi riferisco a Maicon, sì, a Snyder, sì, e perché no, anche se l'associazione con Gasperini sembra blasfema, ma se avessero un'offerta per Milito ci penserebbero anche. Sì, sì, sì, sì. Tutti in vetrina. Uno di questi, Carlo, il top player io non lo prevedo ad oggi. Questa è la strategia dell'Inter: va via uno, ne prendiamo un altro, però se non va via nessuno prendiamo Palacio. Questo è il senso del discorso. Allora Paolo, sei pronto? Ho 5 domande. Non so a cosa vado incontro. Non si vince niente. Non si vince niente. E non sono neanche preparato, non ho nemmeno studiato. Quindi non mi far brutte figure. Dove va Agüero? Dove va Agüero? Più City che Juventus, anche se la Juve ci proverà fino alla fine. Dove va Giuseppe Rossi? Più facile che resti al Villarreal rispetto ad un trasferimento in Italia. Quale sarà la reazione del pueblo juventino all'archiviazione avvenuta poco fa del procedimento dello scudetto di cartone? Sarà l'indignazione, ma anche da parte del primo tifoso della Juve in carica, vale a dire di Andrea Agnelli, che si era battuto e sbattuto per questo. Sarà di indignazione e di rabbia, anche se sull'operato della Procura federale, ma qui stiamo facendo un gioco, non è il caso di discutere, sì. No? Ho qualche idea. Pier Silvio Berlusconi vuole Iniesta, papà glielo compra? No, assolutamente, è incomprabile. Era un sogno da bar, lì non era il bar, era la presentazione dei palinsesti Mediaset autunnali, ma è una cosa da sotto l'ombrellone, ecco, da figurina. E infine, di chi saranno le nuove gambe di Controcampo? Le nuove gambe di Controcampo? Quelle femminili, naturalmente. Ah, pensavo quelle di Alberto Brandi. No, sai che mi cogli impreparato, posso salvarmi in corner dicendo che potrebbe essere confermata Alessia Ventura, ma guarda, sicuramente non ci azzecco. Grande Paolo Bargigia, grazie Paolo. Grazie a te, dai, me la sono cavata, non mi hai fatto far proprio vedere. No, bravissimo, ti sei divertito? Sì, ma molto. Sono contento perché non hai vinto niente. L'importante è che non ti segni le risposte e poi le verifichi a fine agosto. Anzi, no, quando ci vediamo io te le verifichiamo. Bravo. Grazie Paolo, un abbraccio. Un saluto a tutti. Ciao, grazie ciao. A Paolo Bargigia, 800 24 00 24. Prendetevela con Franco Piantanini, mi fa fare queste cose. Io volevo parlare con Pito e con voce anche un po' luttuosa di questo procedimento del 2006, non me lo consente. Ma mi diverto di più così, 800 24 00 24, per le telefonate e messaggi 349 238 6666. C'è chi continua a vedere come me Fabregas al Milan e poi Fabregas al Milan, e io vedo anche Cassano alla Juventus, tanto mi sbaglio, ma fa niente, sostengo le mie idee. Invece De Laurentiis su Amsic, abbiamo sentito le parole di Marechiaro, abbiamo un ascoltatore che scrive tra i tanti: sono tifoso napoletano e conosco bene la tifoseria del Napoli, tenersi un Marek così gelido non giova né a lui né a noi. Scrive Rosario, che lancia anche un post scriptum: non c'è alcun progetto qui, fidatevi, leggo una vena di pessimismo che non trovo così giustificata. Ma prima di parlare con gli ascoltatori, anche De Laurentiis di ieri, che ha detto 40 milioni, rimborso spese. Amsic è fuori mercato, perché Amsic io l'ho preso per valorizzarlo, quindi io già ho investito in questi anni che lui è stato con me i 40 milioni che fanno? Mi fanno un rimborso spese? Cioè, ma perché tutti i soldi che ho investito nel Napoli, negli altri calciatori che hanno permesso anche ad Amsic di esprimere le sue grandi doti e capacità calcistiche, agonistiche e diciamo sportive, mica ha giocato le partite da solo, quindi è chiaro che tutti i miei investimenti sono anche quei 40 milioni che io avrò, che adesso dicono vale 40, ma io ne avrò spesi 40, 50, soltanto in riferimento ad Amsic, che se vado a proporzionare tutti gli investimenti di questi anni. Questo era il De Laurentiis di ieri, dunque a buon intenditor poche parole: se venite con questi soldi io vi caccio via. Caccia i sordi! Ve lo ricordate De Laurentiis? Lo teniamo lì per tutta l'estate, ve lo facciamo risentire, anche il giorno in cui venderà Amsic al Milan, cosa che secondo me alla fine accadrà. Lorenzo, provincia di Bari, Eugenio, provincia di Varese. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Dica. Sono dell'Inter e sono felice. Sono dell'Inter e sono felice. Perché? Ma guardi, non ho chiamato per questo, quindi andrei oltre. Dico solo che sono felice perché poi dai, lo sapete, ok? Sì, lo sappiamo, o quantomeno lo intuiamo, Lorenzo, lo intuiamo. Palazzi vi ha dato una gioia confermando nella bacheca quello scudetto, certo, che un giorno Mourinho disse l'avete ritirato in segreteria, lei se lo ricorda, spogliatoio di Bergamo, intervallo della gara con l'Atalanta in cui l'Inter stava perdendo forse 3-0. Se serviva a pizzicare una corda che fa sempre rumore, che tocca sempre dentro, Mourinho ovviamente ha trovato quella giusta. Eugenio, provincia di Varese, saluto Lorenzo che è interista ed è felice, meraviglioso. Dica Eugenio. Sì, salve, buongiorno, sono chiamato Gallarate. Senta, io al contrario dell'amico precedente, sì, essendo gobbo, tanto felice non sono, le spiego anche il motivo. Sono io gobbo, sono parzialmente triste. Raccolgo il suo invito parzialmente, sì, nel senso che sarebbe ora di mettersi una pietra sopra, questo è evidente. Mm. Io l'unico rammarico che ho, visto che lei dice giustamente che se si parla con il giudice il processo non è valido. Sì. Quello che intendo io non, guardi, non intendo io, la, Eugenio, l'innocenza. No, io le dico una cosa che ho già detto. Dunque, 2006, sono 4 anni che la dico, 5 anni che la dico, quindi certamente non è una cosa inedita. Secondo me quello scudetto non andava assegnato perché per il ragionamento un po' estremista che faccio io e che lei ha ricordato, se il processo è nullo, allora quel campionato è nullo, lo scudetto non si assegna e una buona parte di tutto il casino, di tutte le porcherie che ci siamo dovuti sorbire, vi siete dovuti sorbire voi, gli interisti, tutti quanti, in questi 5 anni ce le saremmo risparmiate, ma non per una questione di egoismo, perché io la vedo così, cioè assegnare quell'errore in un campionato falso, quello scudetto in un campionato falsato è stato un errore. Quindi questo è il mio pensiero, non da oggi, da 5 anni, e continuo a dirlo. Infatti io, quello che intendo io, non è tanto una revoca dello scudetto all'Inter, è una non assegnazione. Basta. Una non assegnazione come è avvenuto per lo scudetto del 2005. Esatto, e questo qui sarebbe un bel modo per mettersi una pietra sopra, ecco, mettiamolo così. Comunque, vabbè, pazienza, cosa dobbiamo fare? Tanto Palazzi ne ha già combinate tante, quindi non è che una più, una meno non cambia molto. Beh, la ringrazio. A lei Eugenio, a lei. 800 24 00 24 è il numero verde e dopo questa notizia e quello che le reazioni che ci saranno, io per fortuna vado in vacanza, vi saluto tutti per 2 settimane, viene qui Massimo Callegari e noi ci risentiamo il 18 di luglio, il giorno in cui ci sarà la sentenza e poi da lì andiamo avanti. Sentenza sulla non assegnazione, quella ufficiale. Leonardo da Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io al di là di quello che è successo con lo scudetto, sono un simpatizzante juventino, ma non ne voglio parlare. Volevo parlare di un'altra cosa, riferendomi al calcio mercato. Adesso ho sentito che forse Agüero va al City più che alla Juve. City più che Juve, confermo. Esatto, dovesse comunque andare a Torino con Quagliarella riscattato, Matri riscattato, non è che Conte dovrebbe un po' cambiare il suo credo calcistico? Ma io credo che Conte, Leonardo, debba adattare il suo credo calcistico alla prima grande squadra a sua disposizione, perché sarebbe un grave atto di presunzione dire io arrivo qui, gioco così, non mi rompete le scatole, prendetemi i giocatori, faccio il 4-2-4 quello che è e adeguatevi di conseguenza. Io credo che Conte, se è, come credo, un allenatore intelligente, non vorrà entrare con col bastone nella cristalleria della signora, cioè dovrà adattare il suo credo pur con ovviamente con tutti i compromessi del caso al personale che gli verrà messo a disposizione. Credo che la Juventus abbia bisogno, ne parlavamo ieri, comunque di un giocatore senz'altro di talento ma anche di grande personalità, quello che gli americani chiamano il go-to guy, cioè l'uomo guida, l'uomo di carisma, che è stato Del Piero, che ovviamente Del Piero potrà essere dal punto di vista dell'immagine non più stabilmente sul campo, però certamente la Juventus ha bisogno di un giocatore di grande personalità, una personalità alla Zidane. So che non ce ne sono, però è quello di cui ha bisogno la Juve. Agüero è uno che ha carisma da questo punto di vista. Molti juventini, e lo so, preferirebbero il sogno di Pastore, non lo so, però un giocatore di questo tipo la Juventus ce l'ha bisogno. Dove, decidetelo voi, o lo decida Conte, lo decida la società, certamente nella metà campo offensiva, anche se voi mi direte la Juventus ha bisogno di essere aggiustata dietro. Sì, però ha bisogno di un faro, su questo non ho dubbi. Dunque, nella notte inizia, poi torniamo a parlarne, però nella notte, ve lo ricordo, in agenda inizia la Coppa America. Seleção favorita aí é a Argentina mesmo, né? Até por tá jogando na sua casa, né? Tá ter grandes jogadores, o melhor do mundo atuando na sua seleção, então na minha opinião, a Argentina é a favorita. Creo que las selecciones están bastante parejas. El favoritismo que tenemos seguramente lo sabemos, somos conscientes de eso. Y también trataremos de ir ganando confianza partido tras partido y poder llegar a tener una excelente copa. Chi mi conosce bene sa che io sono già pesantemente in tensione, chi mi conosce bene conosce le mie simpatie viscerali per la maglia albiceleste dell'Argentina che ospita questa edizione, che questa notte 2:45 ora italiana debutta contro la Bolivia, domani in programma in orari molto più comodi per noi e sarà una Coppa America che potremo seguire senza farci venire le occhiaie. Domani alle 20:30 Colombia-Costa Rica, un sabato di transizione, e poi domenica programmone, perché alle 21 c'è Brasile-Venezuela e alle 22:30 Paraguay-Ecuador. Beh, sarà un grande weekend di sport, nonostante si sia insomma, al primo weekend di luglio c'è Wimbledon che si avvia a gran finale, domani una finale femminile tra le più impronosticabili forse della storia, anche se Wimbledon rimane per fortuna e grazie a Dio il torneo delle grandi sorprese. C'è la Coppa America come dicevo prima, ma c'è anche la partenza del Tour de France su questa strada che non c'è, l'avrete letto, no? Al Passage du Gua, questa strada che riemerge due volte al giorno dal mare, e da quella strada che vive sommersa partirà la Corsa Rosa, una Corsa Rosa che noi seguiremo con grande attenzione, con grandissima attenzione, perché il ciclismo è per noi una priorità e perché faremo tutti insieme il tifo per Ivan Basso. Nostro amico è stato da noi a trovarci e vi ha riservato un grande regalo per queste tre settimane della Corsa Gialla. Ma intanto sentiamo che cosa ha detto, quali sono le... ricordiamo qual è lo stato d'animo con cui Ivan Basso si presenterà domani su questa strada che non c'è. Io credo che bisogna sfruttare l'occasione giusta e soprattutto riconoscere quello che è, che in questo momento lui è l'atleta più forte al mondo. Quando corri una gara e ci sono al via tanti campioni, è bene per tutti, perché comunque la corsa è prestigiosa e se perdi da un grande campione, e se vinci la tua vittoria ha ancora più valore. Questo era Ivan Basso che aprirà un diario su Radio 24 ogni giorno a partire da domani, ogni giorno, quindi dal sabato al sabato, la domenica alla domenica, 7 giorni su 7 per tutta la durata del Tour de France, dopo il GR delle 19, quindi a caldissimo, racconterà la sua corsa, le sue emozioni, le sue difficoltà, racconterà gli avversari, le salite, racconterà il suo Tour de France appena sceso dalla bicicletta, ogni giorno da questi microfoni a partire da domani e dopo il GR delle 19. Più di così credo non sia possibile per seguire da vicino un tour che comunque seguiremo nei giornali radio, seguiremo nei GR Sport, seguiremo all'interno di questo contenitore con Pier Augusto Stagi come sempre. C'è Roberto D'Arenzo, mi dice chi segna il primo gol di Coppa America così vinco l'album Panini. Lo segna naturalmente Carlos Tevez che giocherà ed è ufficiale dal primo minuto, era in dubbio un po' alla vigilia, invece giocherà la gara inaugurale di questa notte contro la Bolivia. Chi invece mi aspetto che possa coronare questo weekend, dicevo, meraviglioso, questo primo weekend di luglio, che dal punto di vista sportivo contiene di tutto, mi auguro che questo weekend possa finalmente essere anche quello di Valentino Rossi, che torna al Mugello dopo l'incidente di un anno fa, che ha la Ducati nuova, che tutto sommato ad Assen è andato abbastanza bene, che ha voglia di vincere. No, vincerà sta corsa Valentino Rossi. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. Ciao Alessandro. Ciao Carlo. Ciao. Ci fa sto regalo? Lui vorrebbe tanto, ma mi sembra che la situazione sia molto complicata, soprattutto a giudicare da questa mattina dove ha fatto soltanto il 13° tempo, anche in realtà per due problemi elettrici che hanno fermato la sua Ducati, però sembra che insomma tutto sempre congiuri un po' nei suoi confronti. Diciamo che l'operazione è molto difficile, lui stesso ha detto, credo che sarà impossibile puntare alla vittoria, un podio potrebbe essere considerato come una vittoria. questi sono i tempi di Valentino, insomma, tempi duri di Valentino Rossi in questo 2011. La Ducati nuova come va? Cioè questa esperienza come procede secondo te? Guarda, è una domanda alla quale non riesce a rispondere neanche lui, quindi io stesso ci troviamo tutti in difficoltà, perché un po' il grande mistero di questa MotoGP. Era partita in un modo, è stata modificata, è stato creato questa sorta di Frankenstein a due ruote, no? Per cui una ciclistica avanzata, quella già del 2012, con invece il motore che gioco forza deve essere questo perché è un'altra cilindrata. È un tentativo che cerca di tenere, come dire, i piedi in due scarpe: da un lato trovare il risultato subito, qui e ora, quest'anno, e dall'altro cercare di preparare il 2012, che insomma, secondo me, al di là di quello che dicono in Ducati, che dice Valentino Rossi, è probabilmente il vero obiettivo, cioè arrivare pronti per inseguire il bersaglio grosso l'anno prossimo, perché quest'anno evidentemente la situazione è molto più complicata di quanto potessero immaginare. Io credo sarà molto difficile anche riuscire a vincere delle gare, però Valentino è l'uomo dei miracoli, è il più grande pilota insomma di sempre probabilmente, quindi da lui dobbiamo aspettarci sempre di tutto, ecco, al di là dei dati che magari sono negativi, però possiamo e dobbiamo sempre sperare di tutto. Senti Alessandro, miglior tempo per Simoncelli stamattina, se non sbaglio, di nuovo il più veloce, e questa è quasi una non notizia. Ieri Pedrosa ha detto: sotto i capelli Simoncelli non ha niente, in effetti fa fatica a stare in piedi, ma in prova va velocissimo. Sì, questo in questo momento è il vero motivo che anima la MotoGP, perché diciamo, se dobbiamo parlare del più forte, non ci sono dubbi, il più forte in assoluto è che esistono, e io credo che se le cose non cambieranno questo mondiale è diciamo quasi già assegnato. Però Marco Simoncelli è quello che fa parlare, no? È quello che fa parlare in ogni momento di se stesso, soprattutto gli spagnoli che ormai lo odiano, lo vorrebbero addirittura in galera, insomma ne dicono di ogni. È vero, Marco vive questa sorta di doppia personalità, per cui fino al sabato alle 2 del pomeriggio è un fenomeno e poi la domenica si sgonfia clamorosamente, quindi non stupisce, hai ragione, non è una notizia, oggi è andato benissimo, lui in questo momento è in stato di grazia dal punto di vista della guida e anche della moto, gli manca un click mentale, ecco, insomma non so se Pedrosa ha ragione a usare quell'espressione così colorita e così forte, però certo c'è da chiedersi insomma che cosa funziona o non funziona nella testa di Marco quando inizia la gara, anche perché poi è lui stesso, no, a dirlo, sembra quasi che gli si chiuda insomma in qualche modo la vena o il neurone o non so che cosa, e gli impedisca di ragionare, perché poi insomma bisogna anche ragionare, no, quando si va in moto e si fa sport, vedremo quindi vedremo, il click è necessario, insomma se fa il click, però sono tutti concordi qui nell'ambiente a dire che Marco potrebbe essere la grande sorpresa, il grande volto nuovo di questa MotoGP. Vedremo, speriamo naturalmente. Naturalmente. Per chiudere, Alessandro, tu dicevi Stoner favoritissimo nella corsa al titolo, ma Lorenzo ha la pancia piena, una moto peggiore di quella dell'anno scorso, non ha più Valentino Rossi magari a risolvergli qualche problemino di messa a punto? O che cosa? Perché l'anno scorso era chiaramente imbattibile, quest'anno si è creato questo binomio Honda Stoner che insomma o cade o vince, ma Lorenzo? No, io credo che la chiave per spiegare Lorenzo sia Stoner e la Honda, cioè loro vanno troppo forte, hanno, come si usa dire insomma con un luogo comune ormai un po' ritrito, ma insomma sincero, hanno spostato l'asticella, no, più in alto, e gli altri faticano in maniera notevole. Sì, poi si dice no, non c'è più Rossi che gli mette a posto la moto, però anche questa è un po' una leggenda, perché poi alla fine l'anno scorso molto più spesso la moto a posto ce l'aveva Jorge Lorenzo, e già l'anno scorso Valentino Rossi aveva qualcosa da dire al suo guru Jeremy Burgess, che ha poi criticato anche pesantemente l'ultima volta ad Asse, che poi tra l'altro qua non c'è per motivi familiari, quindi insomma voglio dire il problema vero in questo momento di tutti gli altri è Stoner ed è la Honda, cioè la Honda è la migliore moto, Stoner è il migliore pilota, fate conto Messi che gioca nel Barcellona, avete fatto o semplicemente Vettel che guida la Red Bull. Ecco, esatto, cioè sono quei binomi perfetti, no? Che era un po' lo stesso che si era creato nel 2007 quando Stoner aveva quella Ducati che perché aveva intercettato un regolamento, perché ha lavorato benissimo, aveva le Bridgestone eccetera eccetera, era la migliore moto. Li mettete insieme, è chiaro che poi forse invece metti Messi in una squadra più debole, magari le cose, i valori cambiano, ma certo, se metti certo. Questo è il risultato. Questo è il risultato. Alessandro, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie a te. Grazie Alessandro. Tutti. Grazie ad Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera al Mugello. Gianni da Milano, invece, non è inviato, ma è il nostro ascoltatore. Buongiorno signor Gente e complimenti per grazie, la trasmissione. Grazie, grazie. Dica. Volevo dirle, io sono un tifoso del Napoli, anche se chiamo da Milano, da 14 anni a Milano. E, volevo appunto dire che io sono col presidente perché... io mi schiero da parte della società perché giocare a Lanciano, giocare sui campi di Serie C per mantenere degli ingaggi troppo alti, dove in Italia forse poche squadre possono competere con il resto dell'Europa o forse nemmeno possono competere con il resto dell'Europa. E poi volevo chiedere, ma secondo lei in Italia e Napoli, prima o poi, potrà mai vincere di nuovo il campionato? Secondo me sì, nel senso che i tempi mi sembrano abbastanza maturi, che la congiuntura permetterebbe in questo momento anche un risultato di questo tipo. Certo è che se vuoi progredire, se vuoi davvero andare all'attacco del potere milanese, grosso modo, in questi anni, devi crescere come squadra. È chiaro anche che se vendi Hamsik devi prendere un giocatore di uguale livello, insomma devi migliorare il roster, devi migliorare la rosa, quindi i tempi sarebbero anche maturi, ma insomma per larga parte di questa stagione i tifosi del Napoli credo che lo abbiano sognato davvero, no? Un miracolo di questo tipo, secondo me abbastanza impossibile perché la rosa del Napoli era fatalmente molto corta, perché era costruita in maniera perfetta per una squadra di questo tipo, cioè con ruoli ben definiti, 11 titolari, le altre riserve, una squadra molto ben allenata anche dal punto di vista atletico, pochissimi infortuni, insomma tutto è girato anche abbastanza giusto. Però se andiamo a vedere la pecca del Napoli in questa stagione, qual è stata? Quella di aver sempre perso i confronti diretti, i confronti con le big. Se riesce a crescere, a rinforzare la sua struttura, perché no? Non vedo in questo momento nel nostro campionato una squadra inattaccabile, non la vedo proprio. È giusto per non farvi mancare anche questa, la suggestione della sigla, Stefano Valenti da Superbasket. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Prima del lockout NBA, prima dei movimenti di mercato che già ci sono stati, ma dove la vedremo la palla canestro alla televisione? Dove? Beh, la dovremmo vedere tutti, se vogliamo dare, come dire, la notizia, nel senso che il basket tornerà in chiaro, che adesso non si chiama più analogico ma digitale terrestre, che sarà la televisione di tutti dal 2012 in poi, perché non tutta l'Italia è ancora convertita completamente alla nuova tecnologia, e in attesa di ufficializzazioni la vedremo sulla 7 il sabato pomeriggio, una diretta presumibilmente alle 18 e la domenica sera alle 20:30 con una diretta su Rai Sport. Quindi questo non è ancora ufficiale, è ufficioso, però questo sarà il palcoscenico del basket, e quindi Sky, il basket di Sky si ridurrà, tra molte virgolette, a quello dell'NBA. Non fosse altro che, ieri è stata annunciata la serrata. It's with some sadness that we're going to recommend this to the committee, because this is a lockout has a very large impact on a lot of people, many of whom or most of whom are not associated with either side. Trattative interrotte dunque, e come da pronostico le trattative tra l'associazione giocatori e l'NBA sono state interrotte, non c'è il contratto, e dunque attualmente e ufficialmente Stefano, l'NBA ha chiuso i battenti. Poi una settimana fa c'era qui Danilo Gallinari che ha detto la serrata ci sarà, ma la mia sensazione è quella che ad Halloween, grosso modo, il campionato possa cominciare. E anche la tua? Beh, sai, in fondo la notte delle zucche, insomma, trasformiamo la zucca in un pallone da basket, non è che andiamo così lontani, eh? È anche suggestiva questa immagine. Ma sì, è chiaro che si parla di soldi, punto. Si parla di soldi, i proprietari vogliono spendere di meno, e, insomma, ognuno ha fatto il proprio passo, l'ha fatto anche l'associazione giocatori, proponendo una riduzione di ingaggi attorno ai 500 milioni di dollari, però evidentemente non è stato sufficiente. Il lockout comunque viene decretato dai proprietari. È difficile entrare poi veramente nelle pieghe di questa realtà, dove è chiaro che c'è chi tira da una parte e chi dall'altra. È inevitabile che i nuovi contratti saranno più brevi, saranno meno danarosi, poi però lo spettacolo lo fanno i giocatori, questo è fuori discussione. Probabilmente adesso è difficile dire veramente quali saranno i tempi, se è vero che magari fino all'ultimo si sperava in una soluzione, in un accordo che non c'è stato, quindi è difficile individuare quando la NBA tornerà. Ricordo un caso analogo a quello del 98, lo ricordo bene perché era l'anno dei campionati mondiali ai quali gli Stati Uniti si presentarono con una squadra fatta da giramondo dei campionati europei. Mi chiedo cosa sarebbe successo se anziché un'estate 2011 piena solo dei campionati europei fosse stata viceversa quella del 2012 con le Olimpiadi, tanto per fare un esempio. Sicuro. Vedremo quel che succederà, probabilmente alla fine l'accordo verrà trovato, semplicemente rispondendo alla domanda: più il basket non si gioca, più l'NBA è ferma e più la perdita è complessiva dei giocatori e dei proprietari. Quando si renderanno conto che stanno perdendo troppi soldi, ricominceranno a giocare. Ricominceranno a trattare, chiuderanno la trattativa e giocheranno. Stefano, invece, mi puoi spiegare che cosa sta succedendo a Bologna? Perché torna la Fortitudo dalla Lega 2, ma c'è una doppia F. Sì, sinceramente è un delirio. Nel senso che per farla breve è un delirio. Per farla breve è un delirio, ma è forse, cioè, uno può dire anche il caldo, no? Sì. Però il problema poi è sempre lo stesso. Si cerca sempre di più di confondere l'idea agli appassionati, che è la cosa nella quale il basket purtroppo sta rinnestando da troppo tempo. C'è una Fortitudo che è indiscutibilmente quella che era sparita dai radar dei campionati professionistici e che ora, tramite un accordo tra il proprietario insolvente Sacrati, insolvente per tutta una serie di motivi noti, e il proprietario della Virtus, quindi una cosa che non ha precedenti, rinasce, prova a rinascere dal massimo campionato dilettantistico in caso di ripescaggio. Però c'è l'altra, che nel frattempo è rinata dalla società madre Fortitudo, ha partecipato alla Serie B grazie a un diritto preso da Budrio e ora si ripresenta sulle scene professionistiche, si chiama ad oggi Basket Club Ferrara, a breve si chiamerà Fortitudo Basket Bologna e sostiene di essere la Fortitudo rinata dalle proprie ceneri. Sembra che alla fine deciderà il popolo della Fortitudo schierarsi con l'uno o con l'altra. Vorrei ridere se il popolo della Fortitudo decidesse di non schierarsi né da una parte né dall'altra, perché alla fine credo che anche il tifoso sia veramente molto disorientato da quello che sta accadendo. Comunque, insomma, da una Fortitudo che non c'era, un'altra non ben definita più la Virtus, adesso ci troviamo con tre squadre, neanche ai tempi, insomma, ai tempi del Gira a Bologna, ecco. Però anche se per certi versi è il segno dei tempi, perché poi se andiamo a vedere in Serie A quanti sono le società, è un gran casino, non è segno dei tempi. Sono rimaste veramente poche, molte sono risorte da fusioni, acquisti, cambi di sede, di tutto un po'. Sì, no, questo è un gran casino, è un gran casino nato da un buco clamoroso, cioè la Fortitudo di Sacrati, e tutto quello che è arrivato ha solo aumentato una confusione. Io capisco anche i tifosi a Fortitudo che dicono: ma sto con Sabatini e con Sacrati o sto con Budrio, con chi diavolo, per chi diavolo devo fare il tifo? E non si capisce. Un'ultima cosa, Stefano, la notizia della settimana invece a livello di mercato in senso lato è il crack delle grandi, di alcune grandi del basket europeo, dall'Olympiakos allo stesso Panathinaikos. C'è chi toglie i soldi, c'è chi taglia gli emolumenti, c'è chi rischia di non essere, di passare da un giorno all'altro, ad esempio Olympiakos, dall'essere una grande del basket europeo ad essere una media squadra greca. Sì, ma del resto è inevitabile che comunque la realtà, diciamo, dell'Eurolega, perché fondamentalmente stiamo parlando di quella, sia soggetta alla grave crisi economica di alcuni paesi. Il crack economico della Grecia è sotto gli occhi di tutti e anche i gli enormi paperoni che sono dietro i due grandi club ateniesi inevitabilmente sentono il peso di questa crisi, ed era inevitabile pensare che non avrebbero potuto continuare a spendere milioni e milioni di euro mentre il paese sta andando a picco. Quindi ridimensionano entrambi in maniera abbastanza sostanziosa. Non va dimenticato che anche in Spagna, dove la crisi non è così forte ma è più che presente, anche il Barcellona ha annunciato un taglio severo del suo budget, l'anno scorso stimato in 30.3 milioni di euro. Il Real Madrid altrettanto fa il passo indietro, e questo crea la contestazione dei tifosi, che non accettano Pablo Laso come allenatore dopo comunque aver avuto l'anno scorso, nello stesso periodo della stagione, Ettore Messina. Quindi la contrazione è evidentemente lo specchio dei tempi e della grave crisi economica che attraversano alcuni paesi in Europa, che poi sono quelli dove il basket è magari più radicato e dove ha portato agli investimenti più forti. Da un'altra parte mi sembra che ci sia una rinascita molto importante del CSKA, e vediamo come si riposizioneranno le italiane in questo discorso, perché Siena sembra poi quella alla fine che riuscirà invece a mantenersi assolutamente competitiva senza grossi stravolgimenti, perché il partner Bank Monte dei Paschi ha confermato le cifre dello scorso anno, e quindi per certi versi Siena potrebbe fare un passo avanti, un ulteriore passo avanti, dopo essere stata già tra le prime quattro grazie a quello che sta succedendo attorno. E vediamo Milano come si presenterà, con quale squadra in questa competizione, che per certi versi può rendere ancora più competitiva delle aspettative la stessa Cantù. Ah, sicuramente, perché si va ridisegnando completamente la geografia europea dei canestri, complice la crisi. Stefano, ti ringrazio. Grazie a voi, alla prossima. Buona giornata, buon weekend e, se del caso, buona vacanza. L'auguro anche a voi, cari amici ascoltatori. Franco Piantaneda, autore di questo programma, Mauro De Angeli in regia. Vi ricordo, da domani, ogni sera, dopo il GR delle 19, Ivan Basso, che racconterà ai nostri microfoni il suo Tour de France. Vi ricordo che, ovviamente, A Tempo di Sport prosegue per tutto il mese di luglio. E nelle prossime due settimane ci sarà qui Massimo Gallegari, mentre io andrò sull'Everest, e poi torno, però, se ci riesco. E, beh... buon weekend, buona settimana, buon estate.